Streaming 24/7. 24/7. Fire 93. Get into the groove, boy. You've got to prove your love to me. Yeah. Cari carissimi amici di Into the Groove, la prima trasmissione interamente realizzata senza olio di palma, che insomma non è proprio da tutti. Prendete posizione nel nostro bellissimo salotto. Io per oggi, visto che a Milano fa un freddo ladro, mi sono permesso di sostituire la birra con del vin brûlé. L'ho preparato con le mie manine, quindi accomodatevi, prendete pure un bel bicchierone, anzi una bella tazza di ceramica, e assaporate il vin brûlé, perché oggi, ragazzi, c'è una puntata che fa paura. Allora, intanto l'ho anticipato forse ieri con un piccolo spoiler, abbiamo tre power trio, si parla non solo di batteristi oggi ma anche di chitarristi, così e così, quindi so che ci sono alcuni chitarristi infiltrati nel nostro pubblico, alzate la mano così vi individuo subito, lì uno, due, tre, perfetto. Allora, vi ho visti, sono tre chitarristi connessi, se dico delle inesattezze mi tirerete le orecchie, ma insomma, intanto saluto perché oggi siamo anche in diretta video, è una cosa molto molto emozionante per me. Bene, partiamo subito perché ho fatto una fatica incredibile a scegliere la playlist di oggi, c'era tantissimo materiale e così ho dovuto, come dire, in qualche modo tagliarmi un ditino per scegliere le canzoni giuste. Partiamo dal primo batterista di oggi. Il primo batterista di oggi è Mr. Ginger Baker, batterista dei Cream. I Cream sono il primo e più importante dei power trio nella musica del rock. Sono tre giovanetti che sarebbero benissimo potuti essere leader ciascuno di una band indipendente. In realtà poi il chitarrista, diciamo abbastanza famoso, Mr. Slowhand, ovvero sia Eric Clapton, diciamo che un po' di cose anche da solista le ha fatte. Al basso c'era un certo Jack Bruce e alla batteria appunto c'era Mr. Ginger Baker, che è un batterista importantissimo perché è un grande innovatore, è un grande tecnico della batteria, è uno di quelli che ha fatto davvero una storia molto molto molto importante per lo sviluppo di questo strumento. Perché Ginger Baker viene naturalmente da una formazione tipicamente jazzistica e il suo approccio allo strumento è assolutamente molto metodico ma anche molto molto musicale. Che cosa ci fa dire che è per noi un batterista molto importante? Ce lo fa dire perché, come dire, i Cream sono stati un trio che hanno inventato l'hard blues, cioè hanno riletto il blues in una chiave molto più roccheggiante e soprattutto molto psichedelica. In questo il contributo di Ginger Baker è stato fondamentale, perché col suo modo di suonare, quello che viene chiamato in gergo tecnico il lead drumming, cioè la batteria di primo piano, una batteria che conduce, ha sicuramente portato appunto un contributo davvero davvero essenziale. Un'altra cosa molto importante che ha portato Ginger Baker è la doppia cassa. C'è un lungo dibattito nella comunità dei batteristi se sia stato per primo Ginger Baker o se sia stato Keith Moon a introdurre in maniera massiccia la doppia cassa, ma di Keith Moon abbiamo già parlato, insomma vi ricorderete, mentre il batterista degli Who appunto è un eclettico, è uno che suona in base all'ispirazione, è uno che è un creativo, insomma Baker è un tecnico e la sua doppia cassa è molto studiata, molto calibrata, e quindi per me la paternità spetta assolutamente a lui. Allora, primo brano che ho scelto, non so neanche come si pronuncia perché il titolo è Swlabr, SWLABR, è l'acronimo di una frase che non mi ricordo e non mi ricorderò mai, ma è tratta dal disco Disraeli Gears, che è fondamentale nella storia del rock appunto perché introduce queste venature di psichedelia all'interno del blues. È un brano incredibile. Io lo mando subito e poi magari lo commentiamo insieme. Allora, vai con i signori Cream. Come into me in the morning, even me at night. Come into me in the morning. glass of beer. The picture has a mustache. You come into me with that soulful look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. Has a beer. Ragazzi, questo era, ecco, scusate, devo prendere un po' la mano. Questo era Jack Bruce che cantava, non è Clapton che canta nei Cream, e soprattutto era Ginger Baker alla batteria. Allora, avete ascoltato un approccio psichedelico al blues, quindi avete, spero, colto questa, come dire, componente molto più dura, molto più ruvida rispetto al blues tradizionale. Questa è una grandissima innovazione portata appunto da questo fantastico power trio. Altre cose importanti da dire su Ginger Baker, io ce ne sono quante volete. Prima di tutto che aveva un caratterino che è tutto un programma, ma su quello, insomma, ripeto, il gossip lo lasciamo da parte. Però era un tipo piuttosto peperino, d'altra parte Ginger è un bel soprannome, no? Ma che cosa ha portato ancora? Diciamo che, allora, Baker è un grande innovatore nella batteria, secondo me a volte anche suo malgrado, nel senso che potremmo quasi definirlo il Forrest Gump della batteria. Cioè lui, per esempio, ha introdotto il set misto, cioè non ha usato soltanto la batteria tradizionale, ma ci ha infilato dentro anche i timpani da orchestra. Ad esempio, la sua batteria era molto importante, però rispetto a tanti altri batteristi che avevano solo pezzi, diciamo, fra virgolette, di batteria tradizionale, lui ha inserito elementi diversi, appunto timpani sinfonici oppure elementi percussivi. E adesso li sentiremo, questi elementi percussivi, perché il prossimo pezzo che ho scelto è impressionante, ma non ve lo anticipo, perché mi è venuto in mente di dire un'altra roba su Ginger Baker, davvero importante. Cioè, il suo stile batteristico, appunto, lui nasce come jazzista, lo elabora, lo modifica e lo adatta al rock. Perché quando vanno a suonare insieme ai Cream, per l'appunto, che hanno un volume molto importante fra gli amplificatori della chitarra e gli amplificatori del basso, per sovrastare, diciamo, questo volume importante di basso e chitarra, lui ha dovuto imparare a picchiare un po' più forte, e picchiare più forte significa in qualche modo asciugare le finezze tecniche. Ora, se avete ascoltato e se ormai avete imparato un pochettino ad ascoltare la musica della batteria, insomma, come sto cercando di farvi apprezzare, insomma, avrete colto che di finezze ne fa tantissime il vecchio Ginger Baker. Però diciamo che lui in qualche maniera ha semplificato il suo stile, e questa sua semplificazione ha dato vita poi allo stile batteristico di alcuni fra i più grandi, fra cui, non ultimo, sempre lui, la divinità del rock, John Bonham. Allora, cosa ho scelto come brano per capire come si configura un set misto? Ho scelto White Room. White Room è una canzone incredibile che ha un'introduzione in 5 quarti, quindi siamo fuori dalla scansione ritmica tradizionale, e l'introduzione è suonata esattamente sui timpani da orchestra. Io la faccio partire subito e così ce l'ascoltiamo. senti qua. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Questo tu. Questi sono timpani d'orchestra. Bellissimo. E allora, The Cream in White Room. Pronti? In a white room with black curtains, near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Mi prendo la denuncia, me la prendo, perché taglio l'assolo di chitarra. Ma d'altra parte, ragazzi, qua si parla di batteria, non si parla mica di chitarra. Ve l'avevo promesso che c'erano dei bravi chitarristi, ma insomma, non me ne vorrà Slow Hand se gli censuro una trentina di secondi di assolo, che comunque è meraviglioso. Allora, ragazzi, avete sentito? A me vengono in mente le cose quando riascolto le canzoni insieme a voi. C'è una cosa importantissima da dire sul drumming di Ginger Baker, ed è innanzitutto la sua capacità di, come dire, incastrare il ritmo all'interno degli altri strumenti. Lui ha la cassa della batteria leggermente in ritardo e il rullante leggermente in anticipo. Questo suo modo di suonare, che sembra quasi il passo di un cammello, no? È un po', appare stanco, ma in realtà è preciso come un metronomo. Però questa sua leggera imperfezione voluta, attenzione, imperfezione rispetto alla quadratura esatta della musica, gli crea questa leggera tensione musicale che rende il pezzo così groove, appunto. Questo è quello che è il groove in una canzone. E poi altra roba importantissima è la sua conoscenza e padronanza dei ritmi africani. Ginger Bell, l'avete sentito già in White Room, è questo modo di suonare tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, molto molto tribale, molto tamburesco, e perché lui l'ha studiata questa roba qua, l'ha studiata veramente, è andato mi sembra in Senegal, comunque sicuramente in Africa, e ha suonato insieme al padrino dell'Afrobeat, che è Fela Kuti, e insieme a lui con Tony Williams, che è appunto il batterista più rappresentativo, più esemplificativo del drumming di stampo africano. Qual è il pezzo nel quale si può sentire meglio questo suo approccio tribale ai tamburi? Il pezzo che mettiamo adesso, che secondo me è anche il più famoso dei Cream, che si intitola Sunshine of Your Love. Ascoltiamocelo in tutto il suo magniloquente splendore. Senti intanto l'introduzione di chitarra e basso, che roba è. Allora, adesso parte, eccolo qua, senti anche la dinamica, no? Da basso, da piano forte. It's getting near dawn, when lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love, give you my dawn surprise. Stay with you, darling, now. I'll stay with you till my season. Abbiamo fatto, che finale abbiamo fatto? Avete sentito che cos'è l'Africa dentro il blues? Beh, insomma, poi dovremmo parlare a lungo di dove nasce il blues, quali sono le sue origini, ma insomma, era giusto per capire qual era stato e qual è stato, quale resterà per sempre il contributo fondamentale di Ginger Baker al mondo del drumming. Come sempre proviamo ad affiancare a lui, che è un gigante, un batterista di adeguata statura. Ci ho pensato un po' e l'ho trovato quasi subito, a dir la verità. Passiamo a un altro power trio e a un altro grande chitarrista. Di chi andiamo a parlare in questo momento? Ci avrete già indovinato. Chi è l'altro grandissimo chitarrista del blues, del rock blues? Mr. Jimi Hendrix, Mr. Voodoo Child. Sentilo. Volevo partire così con questo... con questo wow introduttivo. No, fermatevi con la testa, fermatevi, che già vi vedo che siete partiti, soprattutto voi chitarristi. Non è questo il pezzo di cui voglio parlare, era solo per usare, come dire, un biglietto da visita adeguato, per farci capire di chi andiamo a parlare. Il batterista della Jimi Hendrix Experience, facevo fatica spesso a dirlo, è Mr. Mitch Mitchell, altro gigante dalla statura inarrivabile. Perché è grande Mitch Mitchell? Beh, perché è un altro di quei batteristi che viene da una formazione squisitamente jazzistica. E adesso lancio un piccolo appello ai giovani batteristi che snobbano l'ascolto del jazz. Io non dico lo studio, perché lo capisco, è una musica, fra virgolette, da vecchi, no? Però tutti i grandi batteristi del rock arrivano da una formazione jazzistica, o quantomeno dall'ascolto dei grandi musicisti del jazz. Perché è lì dentro che sono annidiate tutte le tecniche, tutte le cose, tutto il bagaglio tecnico di sapere anche che un batterista dovrebbe avere, le dinamiche, la capacità di fare interplay. L'interplay è suonare assieme, banalmente, botta risposta fra gli strumenti, la capacità di musica d'insieme. E se c'è un esempio lampante di alta qualità di interplay fra musicisti è il trio di Jimi Hendrix. Lui alla chitarra, Mitch Mitchell alla batteria e Noel Redding al basso. Poi dopo c'è stata la parentesi dei Band of Gypsies, ma insomma questo è un altro discorso. Parliamo dell'Experience, questo grandissimo trio di musicisti che ha dato vita a dei dischi indimenticabili. Sappiamo tutti quanti che il meglio di Jimi Hendrix lo si poteva cogliere dal vivo, ma insomma anche dai dischi, se ve li riascoltate, potrete imparare molte molte cose. Allora, questa formazione jazzistica di Mitch Mitchell, però riapplicata, riportata al rock e al blues, fa di lui sicuramente uno dei più fulgidi esempi di batterismo fusion. Oggi va molto di moda la parola fusion per dire appunto la commistione fra generi, fra cose diverse, e lui è senza ombra di dubbio uno di questi. Che cosa ci ha lasciato? Innanzitutto un approccio molto tecnico allo strumento, perché quello che lui fa con le bacchette sulla batteria è davvero estremamente raffinato da un punto di vista tecnico. Quindi immaginatevi che la batteria non è soltanto pestare questi legnetti sulle pelli, che tra l'altro sono sintetiche, ma le si chiamano comunque pelli, ma è come vengono usate queste bacchette. Quella, anche nella batteria c'è la diteggiatura, colpi doppi, colpi singoli, l'incastro, la cassa, la sensibilità nell'usare queste cose è anche frutto di una tecnica profonda e importante che Mitchell padroneggia senza ombra di dubbio. Però questa tecnica lui la usa per esplorare un panorama sonoro, è quello che lui porta dentro questa musica appunto di Jimi Hendrix, che è un compositore assolutamente atipico, fuori da ogni schema. Hendrix è quello che ha portato al limite le possibilità della chitarra e Mitch Mitchell gli tiene dietro con la batteria. Però il primo pezzo che vi faccio ascoltare è la ballata rock più famosa di tutte, forse la più coverizzata. Io non ho parametri, quindi dico sempre forse, perché poi non voglio dire inesattezze, ci sono sicuramente molti esperti di musica che mi sapranno correggere. Ma Little Wing è una rock ballad che ha fatto epoca e dalla quale non si può prescindere. Una canzone brevissima dentro la quale ci sta tutto. Ascoltiamo la capacità e la sensibilità che ha Mitch Mitchell di entrare in questo pezzo che da solo, con la chitarra è già perfetto, lui lo rende preziosissimo, usando un drumming leggero, elegante, eppure molto molto dinamico. L'introduzione è già qualche cosa che ci cambia la vita. Pronti? Little Wing. Senti qua. Questo è già un pezzo perfetto di suo. Come si fa a entrare in punta di piedi in questa stanza musicale? Si fa così, come fa Mitch, con una rullata di introduzione lineare, pulita, ma perfettissima, e che passa alla storia. Respiriamo, contiamo. Circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me. A thousand smiles she gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Niente, 2 minuti e mezzo di perfezione musicale, tanto dura la canzone, poi magari dal vivo durava molto molto di più perché si lasciavano andare a improvvisazioni, era appunto questo il trucco e, e la cosa bella dell'interplay, però in questi 2 minuti e mezzo ragazzi si è scritta la storia delle ballate rock. Andiamo avanti, perché questo, come avete potuto apprezzare spero, è un modo di suonare leggero, delicato, fortemente connotato, perché questo, diciamo, anche il ritmo di base che sostiene questa canzone è di un'eleganza veramente incredibile. Questa leggera sincopatura, ormai avrete imparato cos'è la sincope, no? L'abbiamo detto la puntata scorsa, è tatatta. Questa sincopatura della cassa smuove questo tempo altrimenti lineare, pacato, lo rende sì morbidissimo ma comunque sempre appena appena impercettibilmente teso. Ma noi andiamo avanti perché in questa mescolanza di Charleston chiuso e aperto, appunto insieme alla cassa sincopata, che si crea questa dinamica morbida morbida morbida, andiamo a sentire invece tutto un altro approccio di Mitch Mitchell alla batteria, perché lui è un batterista comunque molto versatile ma che ha il suo suono, quel suono era quello perfetto per la Jimi Hendrix Experience. Che cosa abbiamo? Ho scelto un pezzo dove si sente praticamente una grandissima influenza del funky. Hendrix, prima di diventare il mostro solista che tutto il mondo conosce, è stato un grandissimo turnista, uno che suonava con un sacco di band, ha suonato con un sacco di band funky, soul, come andava di moda in quegli anni. Questa canzone che ho scelto per farvi ascoltare è una che avrebbe fatto ballare perfino James Brown. Ascoltate l'approccio funky che ha Mitch Mitchell in questa canzone e cercate di riuscire a cogliere tutto quello che fa dietro i tamburi in questa Fire. We'll be right back. and stop acting so crazy. You say your mom ain't home and ain't my concern. Just don't play with me and you won't get burned. I have only one itch and desire. Let me stand next to your fire. Cosa stanno facendo questi tre in questa canzone? Allora, naturalmente quello che conta è anche appunto la capacità di suonare assieme. Avete sentito? È un pezzo dove è la batteria che non si ferma mai e basso e chitarra fanno il contrappunto musicale, insomma. Cosa dire ancora di un batterista così? Ce ne sono di robe da dire. Per esempio, questo suo modo di suonare così costante ma creativo è il segreto, secondo me, per il quale funzionava tantissimo la musica della Experience. Ad esempio, cos'è che ha reso immortale nella storia Jimi Hendrix, a parte i suoi brani, che sono dettagli? Tutti ci ricordiamo la scena meravigliosa con la quale lui chiude al Festival di Monterrey, cioè quando nel culmine, dopo aver suonato una versione di Wild Thing pazzesca, lui si inginocchia sul palco e sacrifica al dio del rock la sua Fender Stratocaster, incendia la chitarra e celebra questo rito voodoo, che egli stesso appunto si definiva Voodoo Child, il pezzo col quale ci siamo presentati, l'Experience, insomma. Però perché, provate a immaginare, per far funzionare una scena del genere, che a suo modo è intensissima, però sei tu davanti a una folla di persone, cioè sei tu nell'arena, sei il gladiatore, sei nell'arena con i leoni, è tutto il Colosseo che ti guarda. Per tenere viva l'attenzione ti serve un sostegno potente, ti serve un mantra, ti serve qualche cosa che celebri quel rito lì. E allora, per esempio, tutto quello che è rituale, anche sciamanico, anche se vuoi di trance, avviene grazie all'utilizzo del ritmo. Ad esempio, la meditazione dei monaci tibetani, il buddismo, insomma i mantra, sono una reiterazione ritmica di sonorità che ti inducono appunto a questo stato mentale di meditazione o di alienazione mentale, di viaggio, di trip, chiamiamolo come vogliamo. Se non si usano sostanze psicotrope, che aiutano molto, dicono, perché io sono immune, ma già il ritmo da solo fa tantissimo. E cosa ha permesso a Jimi Hendrix di officiare questo rito senza scadere nel ridicolo? Gliel'ha permesso proprio questa macchina ritmica perfetta che gli girava alle spalle. Che cosa abbiamo, insomma? Questo interplay fra la band ha generato qualità. Ma parlando di versatilità musicale, io ho scelto un brano che non c'entra niente con il rock e che pure è rock. Cioè un brano che gira in tre quarti, è un rock valzer. si può trasformare un valzer in un rock? Certo, se ti chiami Jimi Hendrix, certo, se ti chiami Mitch Mitchell. La canzone è Manic Depression, gira esattamente in tre quarti, e la cosa particolare di Mitch Mitchell è che ha la mano destra che va sempre costante e la sinistra che crea questa meraviglia di panorama sonoro. Ascoltiamoci un rock valzer, Manic Depression. Searching my soul, I know what I want, but I just don't know how to go about getting it. Feeling, sweet feeling, drops from my fingers, fingers. Manic depression is capturing my soul. So pretty, the sweet calls in vain. You make love, you break love, it's all the same. When it's over, music, sweet music, I wish I could caress, caress, caress. Manic depression is a frustrating mess. Wow. Grandissimo batterista al quale Mitch Mitchell si è ispirato senza farne mistero, ed è Elvin Jones. Questo brano qua ne ricorda fortemente la paternità, diciamo, uno dei più grandi in assoluto. Comunque, saltiamo ancora una volta di palo in frasca, o meglio di batterista in batterista, perché volevo affiancare un terzo batterista a questi due, e qui davvero invece ci ho dovuto pensare molto, perché trovare un terzo gigante da affiancare a questi due non era facile. Allora, dove vai a pescarlo uno che possa star bene con questi due mostri? Vai a cercare fra i padri, non fra i figli, perché i figli d'arte non funzionano mai bene come i padri. Ti ho trovato uno che effettivamente è un mostriciattolo, non da poco. Sto parlando di un batterista forse per molti sconosciuto, almeno fin quando non ascolterete la sua musica, perché poi in realtà lo conoscerete benissimo. Lui si chiama Carmine Appice. In realtà è un italo-americano, quindi credo che si pronunci Appice o Appice, quindi Carmine Appice o Appice, Carmine Appice, io non so come si dice, quindi lo dirò, continuerò a chiamarlo Carmine Appice per un bel po' di tempo. Dunque, Carmine Appice arriva alla ribalta mondiale con un gruppo importantissimo che sono i Vanilla Fudge. Vanilla Fudge, che hanno suonato, ad esempio, pensate che i Led Zeppelin aprivano i concerti dei Vanilla Fudge, o Fudge, ma io non so, veramente devo chiamare la Maugeri per farmi insegnare la dizione anglo-americana. Comunque sia, Vanilla Fudge realizzano questo disco di esordio col quale sbaragliano ogni tipo di concorrenza, perché per primi portano la psichedelia, appunto, portano questa architettura costruita su un Moog, su un Hammond spaventoso, e uno dei loro brani che però io non riesco a mettere perché ci abbiamo davvero poco tempo, maledizione, ve l'ho detto che ho fatto fatica a selezionare la playlist, è un pezzo classico bellissimo della Motown. Oh cavolo, non mi viene nemmeno il titolo adesso, vabbè, non fa niente, lo pubblicherò sulla pagina Facebook, perché ho avuto un problema con la tecnologia, vi sarete accorti che il mio telefonino è morto, non sono riuscito a fare la diretta video, fa niente, andiamo avanti. Quindi da Vanilla Fudge, Carmine Appice assieme al suo bassista danno vita a un'altra formazione, si chiamano i Cactus. E già da lì, per esempio, Vanilla Fudge, appunto, portano questa psichedelia rock, e nel frattempo, così, per inciso, danno vita anche alla musica stoner, diciamo, sono fra i primi che inventano lo stoner rock. Carmine Appice è uno che pesta molto forte, è uno che suona rock veramente, veramente tosto, ed è uno che ha suonato con un milione di musicisti, perché il suo stile è unico, è riconoscibilissimo, è molto intenso, ed è uno che usa forte, forte, forte la doppia cassa, e la usa tanto, e la usa anche molto bene. Abbiamo parlato di doppia cassa nella puntata scorsa, in questa ci renderemo conto di che cosa si può fare di bello e non soltanto di tamarro con la doppia cassa. Comunque, passiamo ai Cactus. Ho scelto una canzone bellissima che si chiama Parchment Farm, che è a sua volta una cover. Io vi faccio ascoltare l'originale, che è un blues molto swingato, e poi così possiamo capire come si costruisce una cover portandola nelle proprie corde. Sentiamo l'inizio di Parchment Farm nella versione originale, che è quella di Mose Ellison, grande bluesman. Eccola qua. Questo è un blues molto swingato, no? Senti come gira bene. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Ok, questa è la versione originale. Adesso proviamo a immaginare: dietro i tamburi ci mettiamo Carmine Appice, al basso ci mettiamo Tom Bogert, e esce fuori questa cosa qua, con un intro pazzesca e con un ritmo che diventa lo standard del rock blues per tutto il resto del mondo. My life, be down there ok, ci siamo capiti, no? Che cosa vuol dire fare una cover e portarla nelle proprie corde. Questo è, siamo nella sfera dello psychobilly quasi, del rockabilly estremo, insomma dell'hard blues, chiamatelo come volete. Avete sentito dietro i tamburi un batterista mostruoso. Perché ho detto che ci sono grandi chitarristi? Perché dopo l'esperienza con i Cactus, basso e batteria rimangono immutati e arriva invece al loro posto un certo Jeff Beck, il quale Jeff Beck ci permette di fare, come dire, una cosettina niente male. Loro danno vita a questo trio Beck, Bogart e Appice, col quale creano musiche straordinarie. I loro dischi sono assolutamente da ascoltare dall'inizio alla fine. Io purtroppo, ripeto, mamma mia, ho poco tempo, volevo farvi sentire una versione di Superstition, quindi anche lì una cover presa da Stevie Wonder, straordinaria, veramente portata, trasformata da quel funky, è un groove master, no? Quella è una canzone di riferimento per il funky, fatta diventare rock, proprio rock vera. Ascoltatevela, dei Beck, Bogart e Appice, Superstition, anche questa la metterò sulla nostra pagina Facebook. Invece ho preferito farvi ascoltare una canzone loro originale, si intitola Lady, che è un pezzo incredibile dove c'è un groove di basso e batteria da levarsi la pelle. Però prima di mettere quella canzone, ancora due piccole paroline su Appice, perché se lo merita. È stato sicuramente il primo a diventare un didatta, cioè lui ha scritto metodo per lo studio della batteria, che è diventato un riferimento anche per una serie di batterie, di grandi batteristi, fra cui, non so, mi viene in mente lo stesso Dave Weckl, ad esempio, che è un turbo drummer di cui parleremo sicuramente nelle prossime puntate. E altri grandi batteristi, Greg Bissonette ad esempio, che avrete visto, famoso per i parrucchini, l'avrete visto qualche volta sul palco con Vasco Rossi ad esempio, anche suonato, non è sicuramente la sua esperienza migliore, ma insomma grandi batteristi hanno studiato sui metodi di Carmine Appice, che ancora oggi è vivo e lotta insieme a noi e lavora tantissimo come didatta, fa delle cliniche in giro per il mondo molto molto interessanti, assolutamente da ascoltare. Ci ascoltiamo il power trio, appunto abbiamo sentito Clapton, abbiamo sentito Hendrix, ascoltiamoci anche Jeff Beck alla chitarra con questo pezzo che si intitola Lady, che è una roba veramente da alzarsi in piedi sulla sedia. Lady. We'll be right back. bello, anche ascoltare la mano diversa dei tre chitarristi. Sono stili completamente diversi e sono stili tutti quanti imperdibili, insomma. Allora, avete ascoltato con grande gioia Carmine Appice alla batteria. Io spero, vedi, mi dimentico di dirvi le cose prima, ve le dico a posteriori, così vi riascoltate le canzoni. Avete sentito com'è costante il ritmo di cassa e rullante, costante per modo di dire, fa delle figure ritmiche da applauso, però ci infila dentro queste figure sulla campana del piatto, ad esempio, tutte queste variazioni veramente mutuate dal jazz, insomma, ma anche dal Latin jazz. Fa delle cose davvero interessanti, insomma, il vecchio Carmine, che è un batterista davvero versatile. Ah, per creare confusione, anche suo fratello, che si chiama Vinnie Appice, è un batterista di adeguato livello. Secondo me non bravo come lui, però insomma, per dire, ha suonato con i Black Sabbath e poi con Ronnie James Dio, quindi per dire, anche lui qualche cosina da dire nel mondo della musica ce l'ha. Comunque noi parliamo del fratello maggiore, Carmine, appunto, che è un batterista davvero molto versatile, perché dopo tutte queste esperienze fatte nel mondo dell'hard blues, nel mondo del rock, più dello stoner rock, appunto, di quello un po' più cattivo, ha collaborato con niente meno che Rod Stewart, e lui lo ricorda sempre come il più grande frontman col quale ha collaborato. Incredibile, ma vero, insomma, nonostante quella cotonata improbabile di capelli, quei pantaloni di pelle attillatissimi, Rod Stewart per Carmine Appice è il più grande frontman di sempre, ed effettivamente, insomma, bisogna riconoscere che qualche successino l'ha raccolto. Carmine Appice è anche compositore di due fra le canzoni più di successo di Rod Stewart. La prima è Young Turks, i giovani turchi, e la seconda è Die at Income Sexy, pezzo incredibile. Ora, fa un po' sorridere che un batterista rock così potente, l'avete sentito, con queste ritmiche articolatissime, complicate, tiratissime, abbia potuto scrivere un pezzo come Die at Income Sexy, dove appunto il groove, la batteria è molto semplice, se vogliamo, molto dense, però evidentemente è anche capace di scrivere un pezzo del genere che diventa un successo mondiale, una hit mondiale. Noi siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa puntata, c'è giusto il tempo di passare l'ultimo brano, e ho scelto proprio per l'appunto una versione di Die at Income Sexy, fatta però con un altro guitar hero che è Pat Travis. L'ho messo perché Carmine Appice è uno dei pochi batteristi che è stato capace di creare delle compilation di lui come protagonista, quindi si chiamano le Guitar Zeus di Carmine Appice, cioè gli Zeus, si può dire Zei? Boh, gli Zeus della chitarra che suonano con lui, e ognuno di loro ha portato una cover, un pezzo proprio, insomma, da suonare e rendere così personalissimo. Questa è una versione di Die at Income Sexy. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, vi ringrazio di essere stati con noi, vi ricordo che ci sono un sacco di repliche, tenete d'occhio il sito della radio. Dopo di noi arriva Come viene viene, e adesso viene Die at Income Sexy. Ciao a tutti. Yeah.